Sono le ore 13:24 di mercoledì 15 maggio 2024. Solo una breve nota per tornare un po' su questa mia ossessione della necessità di archiviare tutto, soprattutto gli audiovisivi, visto che ne abbiamo l'opportunità nel momento in cui li produciamo. Ecco, forse devo cominciare a fare qualche distinguo. Qualche settimana fa sono stato invitato negli studi del TG2, della trasmissione Italia Europa, di Saxa Rubra, per una trasmissione dove a un certo punto si è deciso di dedicare un quarto d'ora al fenomeno dei blogger. Perché? Perché diciamo che all'interno della redazione era scattato il tipico panico da giornata mondiale di qualcosa. Come sapete, qualsiasi redazione deve tenere presente questo rutilante calendario e pare che quel giorno fosse la giornata mondiale del blogger. Io mi ricordavo che fosse il 5 agosto, ma la verità è che non esiste nessuna reale ufficialità, semplicemente qualcuno si alza la mattina e stabilisce che una certa data è la giornata mondiale di qualcosa. A un certo punto io sono sicuro che qualcuno si alzerà e stabilirà che esiste anche la giornata mondiale delle giornate mondiali. E comunque, scherzi a parte, io vado più che altro dietro la bieca promessa di parlare anche del mio libro, che un po' parla dei blogger, no? Stiamo sprecando internet, è uscito lo scorso anno, parla anche ancora di tutta questa... questo spazio pubblico ormai residuale dal punto di vista delle frequentazioni, ma in realtà largamente maggioritario, se decidessimo appunto di abitare questo spazio pubblico invece di farci imprigionare dalle piattaforme private. Insomma, fatto sta che accetto l'invito di buon grado e mi reco a Saxa Rubra sotto una specie di diluvio universale, ma per fortuna ho un ombrello e arrivo abbastanza presentabile in studio, salvo poi rendermi conto che non c'è assolutamente lo spazio, il tempo, la modalità di interlocuzione anche con gli ospiti, che erano dei creator, tra l'altro molto bravi, molto popolari. Non c'è mai in televisione l'occasione per portare a termine un qualsiasi discorso compiuto. E quindi poi ho pensato, dato che poi RaiPlay conserva queste puntate, no? queste trasmissioni nel suo archivio, ma a che cosa serve archiviare quella che di fatto è una specie di sagra della frenesia, che serve soltanto a evitare che le persone cambino canale? Io credo che forse il problema dell'archivio alla base soffre del fatto che se si decide di archiviare per esempio ciò che è andato in onda e ciò che va in onda non serve per sfruttare, diciamo così, la profondità di un discorso, il tempo necessario per affrontare un qualsiasi tema, ma serve semplicemente ancora una volta per vendere bastoncini di pesce, beh, a quel punto forse anche archiviare le frenesie non serve più a nulla. E quindi forse proprio per questo dovremmo rivalutare gli archivi che non si preoccupano di ciò che è andato in onda oppure no, no? Ricordavo l'altro giorno, per esempio, l'archivio ubu.web, che raccoglie un'incredibile quantità di materiale anche audiovisivo sulle culture d'avanguardia, e che si prendono naturalmente tutto il tempo di cui c'è bisogno, anche perché poi alla fine, se uno si stufa, può decidere lui che cosa guardare, quanto guardarlo. Anche questa ossessione per il fatto che dopo un minuto un qualsiasi video viene fermato perché avremmo tutti l'attenzione come dei pesci rossi, non dovrebbe forse preoccupare così tanto chi crea il contenuto. Semmai è più un tema, lasciami dire, di scelta editoriale, cioè si tratta di capire che cosa mettere a disposizione delle persone. Io per esempio apprezzo moltissimo Simona Liprandi, che della sua lezione che ha tenuto al nostro corso l'altro giorno ha pubblicato l'integrale, però poi ha pubblicato anche le pillole, perché a seconda del luogo e delle caratteristiche del pubblico che frequenta certi posti in rete, che devi decidere se fargli vedere un minuto e mezzo oppure se dargli l'opportunità di navigare liberamente all'interno anche di un contenuto che dura un'ora, perché no? Ed è un po' la stessa logica di Dipendo Deliri. Io non pretendo che, francamente, sareste anche, io credo, forse passibili di un trattamento sanitario obbligatorio se davvero vi ascoltaste tutte queste mie inutili chiacchiere fino alla fine, dalla prima all'ultima. Sareste forse più pazzi di me che le registro, però siete liberi di farlo, di mollarmi dopo un minuto, di ascoltare solo l'ultimo minuto. Questo potere, il potere di gestire il tempo, alla fine è sempre nelle mani ormai del fruitore. Non abbiamo bisogno di qualcuno che ci metta fretta mentre cerchiamo di finire una frase, perché in quel momento deve andare qualcosa in onda. Ecco, questo io temo che sia uno dei grandi equivoci nei quali ci troviamo adesso.